ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Nona puntata. Era tanto freddo, freddo. Il fuoco faceva più fumo che fiamma e gli occhi mi bruciavano per il fumo, il freddo e il sonno. Mi sentivo triste, infinitamente solo, senza capire la causa della mia tristezza. Forse era il gran silenzio attorno, la neve, il cielo pieno di stelle che si perdeva con la neve. Ma pure, anche in simili condizioni, il corpo faceva il suo dovere. Le gambe mi portavano in cerca di sterpi, le mani mettevano gli sterpi sul fuoco e frugavano nelle tasche per cercare il sale da mettere nella gavetta. Anche il cervello faceva il suo dovere, perché dopo andai a fare un giro delle vedette. «Come va, sergente Maggiù?» va bene, muoviti per non gelare!» E andai a chiamare quelli che dovevano dare il cambio. Era come se io fossi due e non uno, e uno di questi due stava a guardare cosa faceva l'altro e gli diceva cosa dovesse fare e non fare. Lo strano era che uno esisteva come esisteva l'altro, proprio fisicamente, come uno che l'altro potesse toccare. Andai a dormire in un capannone, ma i posti migliori erano occupati, così mi allungai dietro i muli, in prossimità delle loro parti posteriori. Era tutto zeppo di artiglieri e di alpini e bisognava camminare sopra le loro membra. Cercavo di far piano, di camminare leggero, ma pure qualche volta mi capitava di mettere i piedi su un arto assiderato, e allora erano urli e bestemmie. Ogni tanto dovevo uscire per dare il cambio, accertarmi delle vedette. Ero appena rientrato da uno di questi controlli quando un artigliere, camminando nel buio, mi mise gli scarponi sul viso, lasciandomi dei segni dei chiodi sulla pelle. Così gridai anch'io con tutta la mia voce. Prima dell'alba mi fu adunata ancora una volta ordine di abbandonare tutto tranne armi e munizioni. I miei compagni mi guardano e, mostrandomi un fascio di lettere, mi chiedono: questo lo possiamo tenere? Sono tristi e pensierosi. Nessuno butta via le munizioni. Forse si va, finalmente, dico loro. Dovremo camminare molto, bisognerà stare leggeri. Gli ufficiali dicono: fate presto, si parte. Camminiamo spediti. Le stelle fanno presto a sparire e il cielo ritorna come ieri. Una compagnia del nostro battaglione manca l'adunata e non si sa dove sia. Più tardi venni a sapere che questa compagnia restò tutta prigioniera. Era sola di retroguardia e quella mattina si era attardata sulle posizioni. Dalla steppa avanzano colonne di uomini in cachi e gli ufficiali dicevano: sono gli ungheresi che vengono a darci il cambio. Ma quando li ebbero addosso si accorsero che erano russi. Così ci rimasero. Si salvò un ufficiale, qualche alpino, e il capitano, che ci raggiunse più tardi. Era ubriaco di cognac che gridava: la mia compagnia è tutta prigioniera! Siamo tutti circondati, è inutile combattere! Ma era ubriaco e nessuno gli badava. Ora tocca a noi andare su a tentare di rompere l'accerchiamento. Dicono che stanotte gli ufficiali superiori della nostra divisione abbiano tenuto consiglio, decidendo di tentare la sorte sino all'ultima speranza. Diventiamo tutti fiduciosi, allegri quasi, e siamo convinti che questa volta ce la faremo. Con Antonelli e Turn canto Maria Giovanna l'era sull'Ius. Qualcuno passando ci guarda con compassione, ci credono pazzi. Ma noi cantiamo più allegramente. Il tenente Cenci ride. «Avanti il vestone!» si sente gridare. «Ecco, ora toccherà a noi. Passiamo in testa a tutti. Gli artiglieri aprono le loro giberne e ci danno i loro caricatori e le loro bombe a mano. Ci guardano come noi guardavamo quelli che andavano su ieri e cercano di farci coraggio. Rido con Antonelli e diciamo: sparate giusto con il 75-13, a fil di penna. State tranquilli, paesani!» ci dicono. «State tranquilli!» Ecco. Ora si dovrebbe essere sotto tiro. Ma perché non sparano i russi? Di tratto in tratto si vede sulla neve un alpino disteso. Sono i nostri compagni del Verona, rimasti ieri con le scarpe al sole. Alle prime case sentiamo qualche raffica di arma automatica, poi più nulla. Giriamo a destra, ci addentriamo in un bosco di querce. Si sprofonda nella neve con tutta la gamba. Nel bosco accendiamo un fuoco con delle cassette vuote di munizioni. Hanno detto di aspettare qui. Ora i russi si sono attestati a quell'altro villaggio laggiù, che è come un'appendice di questo primo. E di là bisogna passare, perché ci ripetono, dopo c'è una bella strada da dove ci verranno incontro le motorizzate tedesche. Qui, a comandare il mio plotone, viene un tenente di Genova. Ma comandare non sa, almeno in queste situazioni, e mette lo scompiglio tra i miei uomini. Tiene sempre una mano sulla fondina della pistola e con l'altra gesticola, grida, dovete venire con me, io vi porterò in Italia, a chi si allontana sparo. E intanto non si assicura che le armi funzionino e quante munizioni abbiamo. Noi non diamo importanza né ai suoi gesti né alle sue parole e io vado a far due chiacchiere con i fucilieri. Attorno al fuoco stanno pulendo i mitragliatori. Faccio portare là le due Breda che sono ancora in grado di funzionare. Avanti il vestone! Si sente ancora. In testa alla compagnia vediamo il capitano. Non so dove è stato finora. Lo ritroviamo davanti a noi come una volta. Intanto, da dove siamo partiti stamattina è salita una lunga colonna di gente. All'orlo del bosco sono appostate delle piccole catiusce tedesche. Guardo con curiosità quelle strane armi e penso con raccapriccio al rumore che faranno sparando. Gli ufficiali stanno studiando la manovra. Noi, della 55, dovremo fare un lungo giro e prendere il villaggio quasi alle spalle. Il Valchiese e i battaglioni del 5 manovreranno con noi. All'ultimo momento entreranno in azione le catiusce e i carri armati dei tedeschi. Le autocarrette e i camion vengono abbandonati sulla pista che sale quassù. Passando vicino, vediamo gli autisti che rendono inservibili i motori, levano la benzina per darla ai carri armati. Sulla neve sono sparsi pacchi di marchi nuovi e dalle casse sfondate escono circolari, ruolini, registri. E sono contento di vedere la fine di queste cose. Un'autocarretta, vedo scendere il tenente Moscioni. Cammina zoppicando sulla neve pallido, stringe i denti e viene avanti rigido e lungo. Lo chiamo, vado verso di lui. Mi chiede subito del plotone, della compagnia. Ecco lì il suo plotone, signor tenente, andiamo. Tante cose avrei da chiedergli e lui a me, ma ci guardiamo, felici di esserci ritrovati. Camminiamo nella neve alta. Si avanza a fatica, portando le armi si sprofonda ed è una pena tirar su la gamba dalla neve e mandarla avanti per fare il passo. Siamo tutti stanchi e mi diventa sempre più difficile far dare il cambio ai portatori. Il tenente X vuole imporsi, ha sempre la pistola in mano, ma mi accorgo che non l'ascoltano, non hanno fiducia in lui, grida troppo. Anch'io porto il treppiede per il mio tratto. C'è tanto sole ora e si suda. Siamo allo scoperto e così sulla neve si è proprio un bel bersaglio. Cammino con l'animo sospeso pensando se sparassero con i mortai. Per le loro armi automatiche siamo ancora troppo lontani. Mi accorgo che non tutti gli uomini del plotone mi seguono. Anche i miei amici se ne accorgono e mi chiedono perché non vengono con noi? Stiamo uniti, animo, ce la faremo, dico. Siamo del peso noi. Antonelli inveisce sempre di più, sprofondando sotto il peso dell'arma. È in gamba veramente, bestemmia e impreca, ma va sempre avanti e l'arma della sua squadra se la porta quasi sempre lui. Il tenente, che non vuole sentire bestemmiare, rimprovera Antonelli. Antonelli bestemmia più forte e lo manda al diavolo. Come ho vivo questo ricordo. Gli altri plotoni continuano a camminare in ordine sparso alla nostra destra. Noi dobbiamo proteggere la sinistra della compagnia. I russi potrebbero capitare da qui. Il capitano è in testa a tutti e ci grida di camminare più in fretta. Sento le voci di Pendoli, di Cenci, di Moscioni che incitano i loro plotoni. D'un tratto, sotto la crosta di terra che mi copre il viso, sento di impallidire. Ho sentito alcuni colpi di partenza. Ecco il sibilo. Mortai! Le bombe passano sopra di noi e vanno a scoppiare 50 metri più giù, dove non c'è nessuno. Avanti, presto, avanti, dico. Ma come si fa? Avanti, laggiù c'è una balca dove ci si può defilare. Avanti, presto. Tutti vogliono stringersi intorno a me. Sparpagliatevi, grido. A sinistra. Ecco un rombo lungo, ossessionante. Lo conosco bene, ma non sembra così furioso come allora. Alzo la testa e come vedo che le scie delle bombe a razzo vanno in direzione dei russi, mi rallegro. Son per loro, grido. Sono i tedeschi che sparano. Dove cadono i colpi, vediamo delle isbe che si incendiano e subito i mortai russi cessano di sparare su di noi. Alle prime case del villaggio si ode una nutrita sparatoria. Lì c'è il Valchiese. Noi siamo più avanti di loro e dobbiamo fare un lungo giro. Il tenente intanto continua a gridare impugnando la pistola. Vede russi dappertutto. Scambia per russi anche i plotoni della nostra compagnia. Vuole piazzare le armi a ogni 100 metri, puntandole in direzioni fantastiche. Era pazzo, credo, o sulla via per diventarlo. Nel frattempo, a causa della confusione creata dal tenente e del tempo che si perdeva a cambiare i portatori, i rimanenti plotoni della nostra compagnia ci avevano distaccati di un bel po'. Il capitano ci urlava da lontano: fate presto! E se la prendeva con me. Ed era giusto che bisognava fare presto, perché in caso di attacco noi si restava tagliati fuori, né potevamo appoggiare i fucilieri con le pesanti. Accelero. Sudiamo, imprechiamo, ma giungiamo in una balca ove si può tirare il fiato. Risaliamo. Ora siamo vicini al paese, si sta per completare la manovra. Vedo una massa scura sulla neve e mi avvicino. È un alpino dell'Edolo, alla nappina verde. Sembra placidamente addormentato. All'ultimo momento avrà visto i pascoli verdi della Valca Monica e sentiti i campanacci delle vacche. Nel paese, tra isba e isba, passano delle slitte veloci e sento esplosioni di bombe a mano. Guardate, grido, scappano! Ancora un poco, avanti! Il giro è compiuto. Siamo arrivati alle ultime isbe del paese. Bisogna stare attenti perché sparano anche da pochi metri. Ma invece no. Per non restare accerchiati, all'ultimo momento se ne sono andati e hanno fatto pochissima resistenza. Sopra il paese grava una nube di fumo nero e puzzolente. Delle isbe bruciano. Vicino a queste vi sono dei cadaveri. Donne, bambini, uomini. Si sentono lamenti e pianti. Un senso di raccapriccio mi invade e cerco di guardare altrove. Ma lì è come una calamita e il mio sguardo vi ritorna. Ci fermiamo a bere vicino a un pozzo e caliamo giù le gavette con il lungo palo a bilanciere. Qui sostiamo un po'. Il colonnello Signorini ci passa accanto. Sul volto onesto ha un sorriso di soddisfazione. La manovra è riuscita come in una piazza d'armi. Ci dice: bravi ragazzi! Simultaneamente tutti sono presi da un sollievo, da un'allegria grande. È finita ora. Ancora pochi chilometri e saremo fuori dalla sacca. Davanti a noi si apre una strada larga e battuta. Il tenente del mio plotone dice: avete visto cosa ci voleva? Siamo in Italia ormai. Ve l'avevo detto di venire con me. Ci raggiungono anche gli uomini del mio plotone che si erano allontanati al principio dell'azione. Li rimprovero. Antonelli non li guarda nemmeno. A ogni modo, li carico ora delle armi. Il maggiore Bracchi è giulivo e fiero. Si dà attorno per riorganizzare le compagnie del suo vestone. Sotto, Scet! Forza, Scet! A Pasqua saremo a casa per mangiare il capretto! Intanto, la testa della colonna ci raggiunge. La fine si perde nella steppa. Veniamo a sapere che dove eravamo stamattina sono arrivati i carri russi. Hanno fatto strage, ci dicono. La divisione ungherese è rimasta quasi tutta prigioniera assieme a quelli che non avevano abbastanza coraggio o forza per venire con noi. Ma ora tutti corrono avanti creando confusione. In testa però ci vuole della gente armata e si sente gridare: avanti la tridentina! Bracchi grida: Vestù, avanti! Il sole è basso, le nostre ombre si allungano sulla neve. Attorno vi è una distesa immensa, senza case, senza alberi, senza il segno di un uomo, solo noi e la colonna dietro di noi che si sperde in lontananza dove il cielo si unisce alla steppa. Camminiamo. Guardando in giro mi accorgo che sulla nostra via, un poco fuori mano, Vi sono dei cavalli sbandati. Riesco a prenderli. Sul più forte proviamo a caricare le due breda e le munizioni, ma il capitano non vuole. Dice che le armi bisogna averle sempre pronte. E così ci tiriamo dietro i cavalli e le armi in spalla. Dopo un po' un cavallo se lo prende il capitano e vi monta sopra. È molto stanco e ha la febbre. Un cavallo se lo prende Cenci per il suo plotone. Su quello che mi resta carico gli zaini dei portatori. Ora non c'è più il sole e si cammina ancora, muti, con le teste basse. Camminiamo barcolloni cercando di mettere i piedi sulle peste del compagno che sta davanti. Perché camminiamo così? Per cadere sulla neve un po' più avanti e non alzarci più. Alt! Il compagno davanti a noi si è fermato e tutti ci fermiamo. Ci buttiamo sulla neve. Ufficiali superiori italiani e tedeschi su un automezzo cingolato vicino a noi consultano carte e bussole. Le ore passano. Viene la notte e non ci si muove ancora. Forse aspettano una comunicazione radio. Stando fermi, si sente il freddo più che sempre. E tutto attorno è buio, la steppa e il cielo, erbe secche e dure escono dalla neve. Fanno nel vento uno strano rumore, che è il solo che si senta. Nessuno di noi parla. Sediamo sulla neve con la coperta sulle spalle, uno vicino all'altro. Siamo ghiaccio, dentro e fuori, eppure siamo ancora vivi. Levo dallo zaino la scatoletta di carne di riserva. L'apro, ma mi sembra di masticar ghiaccio. Non ha nessun gusto. Non vuole andarmi giù. Riesco a mangiarne metà. Il resto lo ripongo nello zaino. Mi alzo, batto i piedi. Mi avvicino al tenente Moscioni, viene anche Cenci e assieme fumiamo una sigaretta. Non ci diciamo che poche parole. Sembra che si siano gelate anche le corde vocali. Ma restare in piedi così, fumando, ci dà un po' di conforto. Non pensiamo a nulla. Fumiamo e tutto è silenzio. Non si sente nemmeno Antonelli bestemmiare. In piedi! In piedi! Si sente infine gridare da qualcuno. Si riparte. È difficile. Molto difficile muovere i primi passi. Le gambe dolgono, le spalle dolgono, le membra intorpidite dal freddo sembrano non obbedire. Qualcuno torna a cadere nella neve appena si è alzato. Ma un po' alla volta, piano, piano, le gambe tornano a portare avanti il corpo. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. A cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.